gusti, non c'è gusto. No, non è detto, perché non sempre sono, mai sono pesciolini, a volte fai cilecca, a volte vai bene, ma ripeto, non ne ho mai pescato tantissimi. E lì butti la lenza, lo fai arrivare al fondo e poi ti sollevi appena appena. Il piombo lo metti a perdere con una lenza più sottile, in modo che se incucci si spezza l'ultimo pezzo della lenza e recuperi gli artificiali, capito? Io una volta ce l'ho con un amico in barca, questo qua è lì da c'ha le canne elettriche, c'ha multifibra, eccetera, eccetera, tutto pronto, tutto fatto, e io lui pescava con le cannette normali, con le canne elettriche, io con una cannetta normale, con i terminali fatti da me, lui c'aveva tutti i terminali comprati già fatti e tutto. Io pescavo due pesci alla volta e non stavo per nulla, dicevo qua pesce non ce l'ha, io che ce ne andiamo. E siamo andati, avevano dato la traiettoria per andare dove ci sono le pitture, siccome c'era il mare calmo il giorno, abbiamo preso pitture, ma un bebbalo, tutte quante da chilo e mezzo, tutte con le canne elettriche andavo pescando, vabbè, quella canna che c'è buio non andava bene, era un bel grande. E arrivano fino a un certo punto con la canna elettrica, poi tu prendi il coppo e la prendi, capito? Niente, lo usano quando peschi nei fondali altissimi, capito? Se no, cioè, ti ammazzi le braccia a recuperare e quindi fa tutto il mulino elettrico. Già sono belli però. No, io ho un collega, un ex collega c'è in pensione, lui è bravo, fa anche la pesca al tonno, minchia, ha preso pesci da 150 kg. Ma io mi ricordo che c'aveva piombi da mezzo chilo, immagina. Anche da chilo, se fai, a volte facciamo traina, il piombo guardiano, come così si chiama, anche da un chilo, dipende poi dalla velocità in cui vai, capito? Sì, ma noi la peschiamo da fermi, non eravamo ancorati, da fermi. Cioè, abbiamo dato il punto proprio, cioè, lui dice, beh, va già il punto esatto dove andare, ha detto che il mare doveva essere calmo per pescare, perché se no non prendeva nulla. E con il mare calmo siamo andati, mi pare 25 kg di pesce. E gli hanno dato proprio le coordinate giuste, sicuramente lì c'era qualche risalita, perché dopo il mare, il fondo risale, quello è un punto buono. Sì, a pitture e poi non avevo mai visto, io non ne conoscevo manco l'esistenza di questi pesci, lo sai. Invece l'altro giorno, non so se te l'ho raccontato, stavo pescando pulpi al Ghero e sentivo questi strattoni. Beh, sai che mi stavano mangiando i pulpi, i pesci serra. Ah, vero, quando andavi a sollevare te li mangi. No, io cosa faccio? Quando prendo i polpi non me li tengo addosso. Il chiodo, come si chiama? Il chiodo lo tengo appeso al palloncino per la visibilità. E quindi i piombi sono, diciamo, mai i polpi a penzoloni nel chiodo, nel cavetto. Ma come che qualcuno mi stesse tirando indietro questi strattoni? E siccome la tavola sarà un 10-12 metri di lunghezza, me lo ripercorso a fine indietro, e c'era questo pesce serra, maledetto, mi stava mangiando i polpi. Ma pesca sul mare che stavi facendo? No, solo polpi, cioè non avevo niente. Ho provato a mandarlo via col razzo, col gancetto, che io non quello per prendere i polpi. Nulla, non mi mollava. Ho dovuto mettermi i polpi davanti al petto per uscirmene fuori, perché non riuscivo più a pescare. Come li fidavo, me li strappava, li portava via a pezzi. Cazzo, allucinante. Sarà come quella volta che questo qui ha sentito lo strappo forte, cazzo, preso, cazzo, questa è un'altra, in due tirando, facendo, a un certo punto si sente un altro strappone forte, la canna si pigia in due. Alta, e ha trovato solo la testa dell'orata, si ha mangiato tutto, ora ci cacchi pesce umano. I serra sono maledetti, guarda, io non mi era mai capitato di vederlo così in diretta, era una bestia, sarà stata, non so, 3 kg, 4 kg, poi cercando qualcuno vicino che avesse un fucile, invece non c'era nessuno attorno, cercando un collega, un sub, nulla, non c'era nessuno. Lì col fucile l'avessi preso tranquillamente, o magari quando c'è il fucile non si avvicina. Ah beh, certo che sì. E poi sono maledetti. Una volta c'era un uomo che veniva a Porto Torres, al passetto lì dove andavo io a pescare. E era specializzato in pesci serra. Praticamente lui li metteva sotto polenta per comodità invece che sotto sale, perché dice che la polenta li fa staccare subito, invece il sale si diventano duri, si attacca uno con l'altro, invece con la polenta dice che si conservavano meglio, vabbè. E li metteva, cazzo, li metteva questo palloncino con questo spago lungo, come c'era il pesce, si abbassava il pallone, cazzo, tirava, e mi ha detto se ne lo coppa pure perché era un bel grosso. Oh, lo sai che saltava dal coppo, vedi, io c'ho il coppo enorme, ce l'ho grande, saltava dal coppo. No, guarda, era una potenza. Hanno una coda enorme che sembrava la coda di un tonnetto, di un tombarello. Velocissimo, velocissimo, mi girava in tondo, guarda, voleva fregarmi i polpi, e alla fine ho detto, guarda, me ne esco perché tanto è inutile, se li lascio mi rimangia tutto, mi distrugge. Invece quando poi sono arrivato nell'acqua più bassa mi ha mollato, non ho più visto in giro. E dove sei andato a fare i polpi? A Portofresco? No, proprio al Ghenero, davanti alla passeggiata, dove ci sono quei blocchi in cemento, dove sono. Ma ce ne sono? Sì, ci sono, non tantissimi, però qualcuno c'era. Io una volta mi ricordo lì che ho fatto pesca subacquea, stavo pescando un bel, e c'erano gli amici miei, se ne stavano andando perché stava piovendo di notte, io non me ne sono accorto che di nato. Ha detto di Luca me lo veniva benissimo, gli amici miei, io già li muoviti, ne sta piovendo, e ci fu, cosa ne sto fuori a fare, intanto sono bagnato, dopo come smette me ne esco, tranquillamente sono vicino con un bel po' di pesce. Sì, l'ho visto qualche oratella, qualche sargo, è che è tutto distrutto dalle ancore, come buttano l'ancora, il fondale sembra arato, quindi è già più difficile vederli, però qualcuno l'ho trovato, dai. Pensa che era d'estate ancora, quindi i polpi arrivano adesso, a novembre. Lo so, e già ci sono sempre, ma sono più grossi adesso, sono, io ho preso una polpessa a Portotorres che pesava 4 kg, cavolo, una piombra a Maria, questo amico mio mi doveva fare la fotografia e temeva, poi ce l'avevo in mano, io stavo temendo, si allontanava, che tu li hai del tacco. Un paio comunque belli abbiamo presi anche quest'estate, non tantissimi, però un paio belli abbiamo presi, e il resto sono tutti da mezzo chilo, 800 grammi, un chiletto, ma qualcuno grosso da 2-3 kg l'abbiamo preso. Io ho le fotografie ancora, non è di adesso, ma ti parlo di 3-4 anni fa che l'ho preso, e era una polpessa, mi ha detto che era femmina questa vittoria, io non è che li conosco, ma detto, questa è una femmina, se tu la metti dentro la rete, la appendi al coso del molo, porta tutti i punti. Mi sa che i tentacoli ce l'ha più lunghi del polpo normale, là. E invece il filo di ventosa era doppia o a una? Ma io però ho fatto una cazzata, l'ho congelata, perché dopo la prossima settimana ce la mangiamo un po' di più morbida, perché sarà dura. L'ho congelata dentro il freezer, se vuoi usare i 4 limoni e di voi. Quindi era grande. Se sono dei tentacoli facevo un'insalatona grossa, un paio di tentacoli ti facevo, cioè, ti sto dicendo che se avessi modo di fartela vedere ti mandavi la fotografia. E tu pensa che io la prendevo in alto, io sono alto 1,82 e la prendevo dalle spalle, mi arrivava quasi al ginocchio. Sì, la polpetta è più lunga rispetto al polpo, dai. Sì, era molto bella, l'ho messa nel lavandino, riviva tutto il lavandino, allucinante, è una cosa allucinante, enorme. Poi io l'ho presa e l'ho chiusa nella busta, ne ho fatto due nudi, non so come abbia fatto, l'ho messa in macchina. Non so come abbia fatto, quando io sono arrivato a casa c'era la busta aperta, tutta quanto il nero che buttano loro, spasso nel portabagaglio. No, il polpo è micidiale, col tentacolo, se vede uno spazietto si infila. Una volta questo tipo aveva due acquari comunicanti, ma con una cannuccia sottilissima, mai aveva pensato una cosa del genere. Beh, il polpo di notte andava dall'altra parte e si mangiava gli altri pesci, gli altri pesciolini piccolini. E poi se ne rientrava, capito? Ma il polpo dice che c'è una vita molto breve, 2 anni. Sì, no, non campano tanto. Qualcuno dice che c'è un cimitero dalle parti di, mi hanno detto, di Ma dove c'è la miniera, come si chiama? Ma mi scusi il nome. Argentina, c'è una zona dove la chiamano il cimitero dei pulpi, dove dice i pulpi vanno a morire, però non mi è mai capitato di vederli. Non lo so come sia, però so che durano poco, che quindi hanno poco tempo anche per ingrandire, perché se quando ci dentro me li spara anche piccoli. Io mi ricordo che a Portoferro, quando eravamo in campeggio, prendevo un bel di moscardini, di quelli piccoli, ma un bel, li facevamo a rosso, perché siamo andati, sai, da ragazzi, senza denaro, senza nulla, ci abbiamo portato una cassa di patate, poi ci abbiamo portato acqua, poi gli abbiamo portato peperoni, tutta questa roba qua. Quando abbiamo finito la roba, mangiavamo quello che pescavo io, capito? Perché avevamo conosciuto delle ragazze lì e non ce le volevamo andare, eravamo ragazzi, dai, avevamo fatto amicizia con queste ragazze, tutte le sere facevamo balduria insieme, erano vicine di tenda, quindi pescavo polpi. E una volta questo amico mi ha fatto una cazzata, dammi un pezzo più, ho preso già un pezzo di tentacolo, ma non crepa, dice, infilato in gola e non riusciva più a respirare. Si è attaccata alla ventosa. Io, qualcuno comunque la parte terminale, proprio le punte proprio sottili, se viste anche io se le mangiano, ma non la parte grossa dove c'è la ventosa, quella ti si può attaccare, sì. Lo viene. Tu pensi a quello che viene. Giannini. E oramai Luca è diventato importante. Certo, candidato. È importante, mi. Importante, ma è molto importante. Cosa è importante già? No, io sto viaggiando su Stick & Talk adesso, ho degli amici, mi vogliono bene, sto benissimo. Sì, no, già. Ma sono tutti di Sassari, no? Di Cagliari anche. No, di Cagliari insomma, già fatto. Kappa, vedi, poi dicono che i sassaresi non vanno d'accordo con i cagliaritani, era tutto per la storia del pallone, del calcio. Allora, quel casino che è successo qualche anno fa, poi, mamma mia. Io mi ricordo che quando veniva a giocare il Cagliari alla torre si doveva ascoltare la polizia sino quando ci vanno fuori di Sassari. Oh, sgombero in corso al campo nomadi di Sassari, il traffico, questa è roba di polizia, su Maria. Pieno di carabinieri, polizia municipale, pieno, stanno mandando via gli zingari. Da stamattina? Vigili urbani sono, sì, li ho visti anche io. Se fanno inquinamento bruciano i cavi per prendere il rame, quelli dei palazzi attorno gli hanno fatto la denuncia perché gli è arrivato tutto il fumo nero dentro casa. Quella è dioxina, è veleno. Quello le gomme bruciano, capito? Se per scaldarsi, quando veniva, c'è qualche cassetta di plastica della frutta quando lavoravo per scaldare i bambini. E tu scaldi i bambini con le cassette della frutta, si dura di più. Copertoni. Le cassette in plastica voleva, capito? Oh, yeah. E a noi ci fanno biondi rubandoci i cavi, lungolini, mamma mia. Sì, rubano i cavi, si prendono il rame è come loro, non pagano un bel... Ma mi rubano i cavi, fra. All'ordine del giorno. Rame c'è dentro, no? Adesso stanno facendo tutto nuovo, ma finché non utilizzano la fibra ottica, il problema sarà sempre lo stesso. Ma li rubano già quelli collegati? Sì, ma non c'è alta tensione, capito? Lavorano a bassa tensione, proprio per questioni di sicurezza. Ho capito. Visto, quello che gli stava rubando a Portotoro, andando a Portotoro, c'è già quei faretti, c'è rimasto. Roba, qui è che su quei cavi hanno, non so, tipo 30-40 cavi sottili all'interno, che quando vai a bruciarli poi alla fine non c'è il rame, ce n'è poco e niente, però una volta che interrompono quel cavo non funziona più nulla, né gli scambi, né i segnali, non funziona più nulla. E mettono in pericolo anche la vita altrui. No, beh, una volta che il macchinista vede che il semaforo è spento e deve per forza cambiare il sistema, quindi si usa il telefono e così via, dai. Lucrezia, TikTok. E quindi è su TikTok? È su TikTok. E qui sta guadagnando anche da TikTok? Se c'ha follower. Ma non è capitato neanche un video a vederlo su TikTok? No, ma già è capitato. No, va bene, neanche ce l'ho, quelli che vedo li vedo tramite Facebook. Ma io già ce l'ho scritto. Ci vado perché mi fanno i balletti, queste cose belle. Hai capito. Come tu sei sparito Luca, così? Ehi, a Luca è stato sparito. Però entra a gamba tesa e poi buh. Sarà su TikTok. Questo qui, io su TikTok, saluto tutti gli amici. Allucinante. Poi ce n'è uno che è proprio quei sardi d'orici, di quelli gambali, capito? Con la scia. E ogni volta fa vedere, l'altro giorno stava mangiando la fregola con i frutti di mare. E l'altro giorno ancora stava mangiando formaggio con i birbi, ha tolto la cupola, no, come si fa? E il formaggio qui per me l'ha girato, buono veramente questo qua. Poi ho fatto vedere un formaggio che aveva comprato, un misto pecore e capra, e non c'aveva un buco questo formaggio liscio, bello, catece, è pure buono questo. Immagino la gente, magari quelli continentali, che vedono questi vermetti che saltano. Poi io mi ricordo mia sorella che li prendeva al volo, se li mangiava, che schifo. Ah, tu non lo mangi? Dopo che sono passato. Dipende, dai. No, non ho paura, neanche dei miei gattini. No, se ci sono i vermi mi fa schifo, non le mangio. So, dopo che sono passati, se poi pensi quello che se l'hanno ingerita e poi l'hanno fatta, è ancora più schifosa, però il verme per sé mi fa schifo. Sì, a molti fa schifo. No, io ripeto, non ho problemi, la verità. In base alla fase, che qualsiasi fase sia il formaggio, no, non mi dà fastidio, va. L'ultima volta che l'ho comprato l'ho preso a 18 euro e me l'hanno venduto a San Gavino, a Portottone, c'era la festa di San Gavino. E praticamente c'era questo cambio di lune che vendeva formaggi e cose, c'era una bicetta e tasca, ma formaggio più bello non era. Sì che ce l'ho, quanto le vendi? E dammelo una foto. Ha preso da dentro il furgone e me l'ha dato. L'ho aperto a casa tutto cremoso, mo che eravamo. È che sono cose che non le puoi mangiare spesso, specialmente in quantità. Ma non va male, c'è gente che è stata ricoverata, perché sono cose che fanno male. Non è, ci vuole pane carasau di quello bello abbrustolito e spalmato, ma non tanto, un pochino per gustare, basta. Se esageri ti fa male. Un paio di crostini così come antipasto e basta. Perché poi è molto salato, perché ha problemi di pressione, mamma mia. Piccante, però è buono, c'è poco da fare. A me poi il formaggio, la salsiccia mi piace un bel, io sono amante di queste cose, ma le ho mollate un po' perché avevo problemi di colesterolo e le ho mollate un po', se no prima a casa non mancava mai, le salsiccia riga. Che a me piace, però cerco di controllarmi anch'io, dai. Ah no, io non mi controllavo, quando c'era partivo a tutto. Un paio di fette, assaggio e poi passo. Ma io sono ingordo, c'è poco da fare, la cosa, se mi piazzi guai, sono ingordo, capito? Lo dico, lo ammetto, certe cose tipo a me la salsiccia affumicata, mi piace un bel, a me tutta la affumicata, il salmone, la salsiccia affumicata, il giusto, tutta la roba che è affumicata mi piace tremendamente. Sì, infatti una abbiamo presa normale, una ho detto no, per me io la voglio ben condita, è affumicata pure. E a me affumicata mi piace un bel. Sono così, peccati di gola che magari paghi perché vedete c'è il colesterolo un po' alto, ma non è tanto, però dovrebbe calare un po'. E niente. E poi mi ha dato l'integratore perché con la vitamina D bassa. E quella diceva che sia proprio quella che fissa il calcio alle ossa. E praticamente dice che noi sardi quasi tutti ce l'abbiamo questo problema qua, capito? La mia dottoressa ha detto io non ne do nemmeno di cure, perché tutti i sardi ce l'hanno così, il mio diabetologo mi dice allora cazzo, cioè se uno c'ha qualche cosa non gliela accusi, cerchi sempre di rimediare. Vabbè, poi è un integratore, no, non è una medicina. No, non è una medicina, ma costava 30 euro, non ti dico altro, una boccetta di pasticca. Guarda se trovi qualcosa da internet, a volte risparmi un sacco, eh. 30 euro, però ti dirò una cosa, prima avevo sempre dolori alle dita dei piedi, alle dita delle mani, quando ho preso questa roba qua mi sono passato a completare. Vitamina D, un po' più di sole, vai, devi prendere. Ma io c'ho l'oxartusi, capito, quello, ce l'ho tutto il corpo, prima mi prendeva il braccio, poi mi prendeva le mani, e ho fatto questa roba qua, non so se ho, diciamo, un caso, però dopo che ho preso queste pastiglie non ho più avuto né dolori al braccio, né dolori alle mani, nei piedi, niente. Vuol dire che funziona, vedi? Mi dici che ora è, per cortesia, che qui sono sprovvisto. Che ora è? Grazie. Le 20:12, stavo accendendo il telefono perché sono a Luglio. E anche io sono solo con la strumentazione. Mi sa che ti devo lasciare, però iniziamo già a pensare per la cena. A proposito di salsicce, a volte la taglio a dadini e mi faccio un bel sugo con la salsiccia a cubetti, dai. Anch'io lo faccio, però è un peccato a volte usarla per il sugo. È un vero peccato, perché è bella mangiarla così, è buona già così. Vabbè, comunque anch'io lo faccio. E anche il sugo di granchi mi piace. Prendo i granchi, mi spacco in due e mi faccio il sugo di granchi. Il granchi non c'è nulla da mangiare, ma il sugo diventa buonissimo. E poi è un passatempo, io mi faccio le labbra a beffa, a pezzi, però mi piace il gusto quando li strizzi e esce quel sughetto da dentro. Che buono, dai. Dai, ti lascio, un abbraccio, salutami a Luca se rientra. Bocca al lupo per tutto e ci aggiorniamo alle prossime, ok? Ehi, ciao Fra, mi ha fatto piacere questo, dai, almeno qualcuno c'è ogni tanto. Andrà bene, ci sentiamo, una carica quando la fai anch'io dovrò caricare adesso, sempre andandoci molto cauto. Ehi, dai, anche a me fa piacere scambiare quattro chiacchiere. Salutiamo anche gli ascoltoni e alle prossime. Ciao, ciao Gian. Ciao Gianni, ciao Franco, dai, io sto cenando, non posso stare in radio, se no non mangio, dai, ciao già, ci sentiamo domani nel caso, ok, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao Lu. Ciao Franchicito, alla prossima, ciao. Buona carica. Grazie anche a voi, ciao. Buona carica a tutti, ciao ciao. Ciao, non c'è nessun ascoltone, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, di no. Beh. Ehi, io stavo per andare e c'è il buco nello zoo. Vai già, non c'è problema, io mi sono seduto un attimino qua, la PC, io ho l'abitudine di rimangiare un pochino più tardi e quindi non c'è problema. Tranquillo. Ciao Bucco. Ciao Luca. E là che vado, ceno, ciao, ciao, buona cena a tutti. Ciao, ciao, ciao. Dai, 10 minuti ancora mi trattengo, ti dai. Oggi in gita è. Aspetta un attimo che provo a accordare già. Ecco qua, perché ho cambiato antenna, quindi ogni tanto devo accordare la radio. Ero in gita? No, scusa, mi sembrava che era domenica, oggi invece è lunedì. Sono preso al collettore del tempo. Cosa ti stavo dicendo? È che antenna hai messo? No, ho un selettore d'antenna, quindi cambio da una radio all'altra. Ogni qualvolta io cambio la selettore, devo il computer d'antenna, devo accordare questa. Non so, adesso c'è una, due, una, tre di stazione che me le porta a zero, capito? Sì, abbassa appena la radio. Aspetta, se devo mettere sempre le cose, allora. 1, 2, 3, prova, meglio da così. Eia, andà bene. Eia, e io sto aspettando che mi chiamano per altro. Ah sì? Perché? Cosa c'è in corso? L'anca, c'è quel subatto rosso, praticamente la testa del femore, e quindi devo subire questa operazione, dolori dall'altro mondo, che non dormo la notte da mesi, sto prendendo occhi, cazzo da tutto andare, non va più bene, ragazzi. E alla fine poi devi cedere. Già l'altra l'avevo fatta e purtroppo il lavoro che ho fatto mi ha portato a questo, tirando pedane, eccetera, di acqua, e ti porta a questo perché metti sottosposto la testa del femore come punti piedi per tirare, perché allora quando lavoravo io, se volevo anche elettrogenetriche, ma arrivano nella cuscì. Non so. Lo so perché così c'è anche mio cognato che lavora con la Rinascente e aveva quel ruolo lì. Allora, adesso ultimamente stiamo usando muletti, trasfari elettrici, tutto quanto, ma prima quando caricavo il camion sulla pedana, che il camion praticamente era in discesa, e facevi il doppio della forza per tirare la pedana in forza. Allora, purtroppo sì, mi ho preso l'artrosi e mi ha colpito la testa del femore, c'è da una parte che dall'altra, e una l'ho già operata, adesso devo operare l'altra, che adesso questa qui è andata anche in necrosi, quindi vuole operata subito, a fine mese mi chiamano e me lo faccio. Sì, già, ora tanto per stare a soffrire, diciamo che io la penso così, poi è meglio soffrire una volta e non ci pensi più, me. Sì, c'è da soffrire anche dopo l'intervento, nell'altro mi avevano fatto anche la morfina, immaginati da quanto soffrivo, i primi giorni soffri, però poi non senti più dolore, va andando e diminuendo, alla fine ti passa del tutto. E in un anno io ho riacquistato il 100%. Va bene, dai. Devi resistere già. Soffri che sono un mesetto, ma poi salti come un grillo. Io guarda, l'interessante è stare in piedi, non voglio correre, non mi interessa correre, anche se prima lo facevo. Che col cane mi mettevo a correre, mi facevo tutta quella strada che c'è che sale da casa verso il monte, andavo lì, correvo col cane, lui si girava la testa, poi dice andiamo, io vai, dai, come stava correndo, ma aveva quattro zappi o due, a Giovanni non riuscivo a metterli a prestare. Vabbè. Ho saputo che hanno sgomberato il campo rom, sono sbagliato, vero? E a tutti i vigili urbani hanno smantellato, hanno arrestato anche gente per l'inquinamento ambientale, eccetera, eccetera. Si sono lamentati quelli dei palazzi a fianco, avevano ragione, bruciavano i cavi per prendere il rame e tutto il fumo nero li andava dentro casa, non potevano aprire manco le finestre d'estate perché le stava il fumo. Allora io ho lavorato, stavo lavorando lì a poco tempo fa, di fronte a loro, dove c'è l'orto botanico, e una volta proprio di fronte a noi c'era solo una strada che ci limitava, stavo caricando un escavatore, stavo caricando del materiale, credimi, il fumo nero che c'era, alla fine ho chiamato anche io i vigili, sono arrivati dopo 3 ore che li ho chiamati, perché io ero sempre lì caricando, quindi li vedevo, dopo 3 ore però avevo già, diciamo, finito il tutto, perché avevo già finito di bruciare. E dalla fine gli ho fatto, sì, però non ho chiamato adesso io, ho chiamato casa, si sono girati, non ho fatto finta di niente. Ma hai sentito, c'era Franco Binario poco fa, ha detto che nelle linee ferroviarie li rubano i cavi e non funzionano più negli scambi, nei semafori, niente, dei tre. Figurati tu, vabbè, la guerra intanto, tempo zero li tolgono fuori direttamente, adesso troveranno un altro posto dove appoggiarsi e faranno lo stesso, un casino come l'hanno fatto lì, perché lì c'è una tirata in testa di tutto quello che c'è e di tutto quello che hanno fatto. E sarà come la mia collega Porto Torres che ci ha fatto la casa in Campania per essere tranquilla, era tutto quanto bello tranquillo, a un certo punto hanno messo le abitazioni per i zingari, hanno fatto. Le hanno fatto gli appartamenti, capito? E gli zingari se ne stanno lì, fanno casino, bruciano, fanno, c'è già, non si può stare più tranquilli, io non ne sono venuto a qua, stavo tranquilli, ho peggiorato la situazione. Sì, vabbè, io ho chiamato anche più volte perché ho fatto quasi 2 anni lì dentro, adesso abbiamo quasi terminato i lavori, quindi andiamo tanto dentro, giusto per fare qualche intervento leggero. Ma sai quante volte abbiamo chiamato perché proprio la nuvola nera, proprio un fungo ce l'è presente sopra di loro, ma quando mai gli permettono queste cose qua? Niente, poi c'è anche lì a fianco c'è il tribunale minorile, il carcere minorile, quindi anche lì dovrebbero parlare, fare qualcosa. fianco a loro c'è una casa, tu pensa che fianco a loro, allora, tempo fa avevano fatto i bagni per loro, ok? Avevano fatto i bagni per loro, quindi con tanto di, ma no, no, ne avevano fatto forse una quindicina, quindi con tanto di veranda, docce, bagni, tutto per loro. Tempo zero hanno smontato tutti i rubinetti e praticamente l'acqua estate stava sempre fuoriuscendo da questi rubinetti qua. A fianco a loro, a diciamo a 100 metri in linea d'aria, c'era una casa di due piani, una casa rossa prima del vivaio che c'è. E praticamente sono andato a fare un intervento lì in quella casa perché si è allagata la cantina, tutta l'acqua che fuoriusciva da questi rubinetti è andata a finire nel terreno di questo signore qua, gli ha lavato la cantina quasi a filo di corda di acqua, quindi con lo scavatore ho dovuto fare una traccia per poter portare via l'acqua dall'appartamento, sennò i mobili stavano galleggiando. Ma questo è successo un'estate di qualche anno fa, quindi dicevo vabbè, non può essere il terreno che fuoriesce acqua, qualcosa ci deve essere. Poi sono stati scoperti che praticamente loro hanno tolto tutti i rubinetti e quindi l'acqua stava sempre andando. Questa politica di acqua che la fa secondo te? Un periodo non c'era più vicino a casa, ma di mano. Tu sei invece noi facevo servizio ambulanza e più volte siamo andati per risse tra di loro, eccetera, eccetera. E una volta siamo andati a prendere questa donna che era in galera, se l'hanno picchiata perché si è fatta prendere rubando, capito? L'hanno picchiata e siamo andati noi a prendere con l'ambulanza e c'erano anche i carabinieri e cose. E loro ci hanno detto i carabinieri che gli hanno messo l'acqua potabile, ci avevano un grande serbatoio, dove coso, e come gliel'hanno messa era, non ne hanno usato un guscio. Lo so già, io avevo comprato un appartamento lì, proprio dietro di me c'erano loro, io ero dalla parte della strada però, e però avevo mezzo terrazzino che arrivava quasi a vederle, diciamo, io abitavo lì quasi, non potevo essere anche vicino in casa se le cose fossero andate bene. Ti avevo dato una tana, Sì, no, io ti dico una cosa, che praticamente spendevano troppi soldi per questi zingari, potevano aiutare le famiglie bisognose invece di aiutare questi zingari che poi non sanno dare il loro valore alle cose. Immaginate che picchiamo, se la trovano rubando, per dire, uno zingaro o una zingara, quando ritorno al campo la picchiano, invece di accoglierla dopo che l'hanno liberata la galera, l'hanno incutata, ed è anche incinta questa donna, capito? L'abbiamo portata all'ospedale in maternità. La picchiano perché non si vuole far trovare rubando. Addirittura, guarda, avevo visto anche quando allora c'era, non mi ricordo che il capo di sindaco c'era, stavano mangiando assieme, c'era una tavolata lunga e il sindaco stava mangiando assieme con loro, ti puoi immaginare, sindaco e del fattore di Vigili Urbani. Sì, ma gli danno troppa importanza perche se ne vantano, dicono, li hanno intervistati anche magari non sono di qua, però hanno intervistato il zingaro, noi rubiamo loro che avete voi nelle case, per quello siamo ricchi, così ha detto questo, prendo per il culo col sorriso. Sì, ho sentito, però non paghiamo niente, non paghiamo acqua, non paghiamo droga, non l'ho sentito quella. Vabbè, purtroppo glielo lasciamo fare. Cosa avete detto? Cioè, tu pensa che io vedo una fotografia qua di un camper loro, nuovo, un Icaro 5LX, è un camper, io penso che costi 50.000 euro questo camper. Sicuro. Ma loro praticamente hanno soldi facili, capito? Io ho un amico che lavora in banca, credo che versavano anche 30.000 euro, capito? Vuol dire che i soldi li fanno i soldi, perché rubando oro, vendendo, se magari hanno qualcuno che glielo ricicla, che glielo scioglie, capito? A me una volta questo zingaro mi ha fermato sotto casa, c'era una catena d'oro di quelle da magnaccio, di quelle grosse, con la croce grossa, ha detto, la voi 1.000 euro, se la vuoi te la vendo 1000 euro, dai compramela, mi fai, io te non ne ho dei soldi, ho la sedia, non c'ho soldi, e fammi una sedia, se così mi agattare subito la giurista. Per carità, loro erano soddisfatti perché giustamente sì, sono intrappolati in tante cose. Ma loro si risciolgono, si fanno questi anelli grossi, queste catenine grosse che vale da magnaccio, si fanno queste cose qua. Se venivano da noi quando io lavoravo, volevano le cassette di plastica per fare il fuoco per scaldare i bambini, ma tu gli fai il fuoco con le cassette di plastica per i bambini e fa male. Prendi quelle di legno, detto, se vuoi ti dico, no, legno no, brucia troppo in fretta, plastica dura di più. E allora, perché? Se non mi sbaglio, ultimamente avevano ricoverato una perché aveva fatto il fuoco dentro una baracca e c'erano le cassette di plastica bruciando, era intossicata. E allora fanno queste cose, capito? Una volta abbiamo dovuto mettere il cancello dietro il capannone del negozio, abbiamo dovuto mettere un cancello perché andavano dentro, siccome dentro c'erano, dietro c'erano tutti i cassoletti dove buttavamo la roba della verdura, banane di quelle un po' mature che magari si possono anche mangiare, e loro entravano a prendere queste robe, capito? E abbiamo dovuto fare il cancello perché ci hanno rubato un motore di un frigorifero e quella volta ci avrei potuto piangere io perché hanno svoltato questo motore che era un po' rumoroso e quelli del palazzo si erano lamentati, hanno messo un motore più silenzioso e il principale mi ha detto già, caricalo sul furgone o sul camion e lo porti a Capannone. Siccome era il periodo di Natale, ci avevamo 1000 consegne, io di andare a Capannone non ce la facevo, quindi cosa ho fatto? L'ho messo sulla pedana, l'ho tutto vuoto con il nylon e l'ho messo fuori, però dietro il Capannone. Non sai che ci hanno rubato il motore? E vabbè, se dicono un po' a tutto, dai. Il principale mi ha detto, mettiti le mani in tasca, per quale motivo? Io l'ho appoggiato lì, poi se l'hanno rubato non è colpa mia. Sì, ma bisogna portare al Capannone, sì, ma cazzo, tutte le cose che ci sono, di cesti nataliti, di questo o dell'altro, io posso andare a Capannone, chi ne ha di te? Non è molto poco manco per andare in basso. Sì, pure devo dire, mettiti la mano in tasca. La mano in tasca non è detto per metterci la cosa dentro, non per toglierla. Mica era pesante il motore, io non so come abbiano fatto qui. Io l'ho scaricato con la pedana, col muretto, l'ho scaricato dal camion perché era di quelli un bel pesanti, era di quei motori che si mettono all'esterno, gli avevano fatto una casupola all'esterno del palazzo e l'aveva messo così in alto, no? E si sono lamentati perché dice che la notte faceva rumore e purtroppo i motori fanno rumore, ci voleva mettere l'avvocato, non so che cosa, la voletta principale, mi stanno rompendo le palle, ho detto qua capo, sempre con questa storia del motore, non sanno cosa fare, purtroppo alla fine ho dovuto mettere un motore silenzioso che non faceva rumore per accontentare, anche se no faceva dei casini. E questo motore io l'ho appoggiato dietro il capannone, con tutto che cazzo il capannone, chi ci va dietro più che loro. Sono andato e c'era il nylon con la pedana, anche se non c'era più, era tutto nastrato, gli ho messo il nylon che lo copriva tutto nastrato bene per la pioggia, per l'umidità, capisci? Sì, ma guarda, non c'è da meravigliarti, perché se sono riusciti a entrare, loro hanno anche un piccolo dilli con la gruetta sopra, quindi c'è poco da meravigliare, già non sono fatica. Ah, le fighe l'avrei arrivato, perché noi eravamo sempre lì caricando, arrivavano a scaricare, quindi cioè, movimento ce n'era lì, no? Io non so come abbiano fatto, boh. O l'hanno fatto verso le 2, così che tutti vanno a casa, rimangono pochi, diciamo, personale ne rimane poco, quindi quello che rimane lavora dietro i banchi, eccetera, quindi c'è poca gente, perché non è possibile ce l'abbiamo fatta. E dopo abbiamo dovuto mettere il cancello, una volta ho trovato questa tipa che stava scavalcando il cancello, l'ho visto, guarda, per carità, lasciamo perdere. Era la Twic, di quelli che si drogano sicuramente, francesi, e stavano andando a cercare qualche cosa da mangiare, si avevano preso le banane che c'erano dentro il coso tutto pieno di moca, di coso, il cassoletto che c'era dietro, perché il comune non ci mette per cassoletti, al produttore si ritirò porta a porta, però noi c'erano per cassoletti grandi perché eravamo una ditta grossa e quindi facevamo un po' di molletta e ci avevano messo i cassoletti. C'è di questa gente che si avventura, magari sono, come tutto, sono gente di furie, ho visto roba da mangiare, ci hanno provato, ma vabbè, c'è chi nasce così. Non ti puoi più fidare di nulla, capito? Hanno rubato le piante dal portone, immaginati, la figlia di questo che abita il mio fatto, dico, scusi, dove le sto portando quelle piante? No, ci hanno detto di cambiarle, dobbiamo portare quelle nuove e stiamo prendendo queste qua. L'ha detto la mamma, ma quale? Ma sta scherzando, dove sono? Poi li hanno beccati, li avevano fregato anche delle serre di coso di che ci sono dentro al cimitero lì, avevano fregato piante e coso, se ci prendevano le piante rubate questi qui, capito? Ci hanno beccati tu, però intanto le piante ce l'hanno fregate al portone dall'entrata. Vabbè, la sono sempre di queste cose, non è che. Però io sentivo anche andavano a rubare al cimitero, aspettavo un attimo che mettevi i fiori nuovi per prendere, te li carte a prendersi a seconda mano. Sì, dopo non capisco, questi qua vanno al cimitero a rubare i fiori delle altre tombe per mettere nella tomba dei suoi cari. Ma che atto fanno, per carità di Dio? Se li rubano a uno per metterla all'altro. Oh, io non si può pulire, ma con i fiori al cimitero ti rubano piante, fiori, tutto qua, dalle mani. Dimmi tu, c'è una cosa possibile che uno non vada a prendere i fiori dagli altri e li metta in circa. Eppure c'è gente che lo fa, cosa vuoi ti dica già? Perché siamo in una vita marcia, senza più valori, senza più sentimenti, senza più niente. Uno che fa quell'atto di mettere i fiori, li mette i suoi cari, ma lo fa col cuore, non è che va a rubarli agli altri. Vabbè, che abbiamo fatto? Io per mezzo, mi sa che ci prepariamo per il rancio. E anche io vado a mangiare, dai. Se mi tocca, se non trovo il piatto rovesciato, perché ne è andato a portare il cane, adesso devo fare qualcosa io, dai. Ci sentiamo, ti stavi bene, dai, ciao ciao. Vabbè, ciao già, ti saluto, dai, tanti auguri per il futuro. Grazie a te. Dai, facci sapere, ciao ciao. Ciao ciao, ti ci sento.